Allora, io ho già conosciuto Alessandro Vacchi per quanto riguarda un po' il lavoro di arrivo, di artisti. Vorrei parlare invece in questa parte di dialogo del percorso in mostra a proposito di questi disegni. Noi abbiamo deciso con Marzia Faietti e Elena Rossoni, che hanno curato la mostra assieme a me, di dividere i disegni per temi, perché ci sembrava il modo più agile per comunicarli al grande pubblico. La collezione Zacchi è particolarmente ricca di autori, ma anche di tematiche, di soggetti molto diversificati, e questo per noi è stato semplice: organizzare e dividere tra quelli che sono un po' i grandi temi della storia dell'arte e della storia del disegno in modo particolare, quindi composizione, figure, paesaggi, ritratti e caricature. Quindi il visitatore si troverà ad affrontare queste tematiche singolarmente, pensiamo anche in modo più agile. Un viaggio nel tempo, visto il percorso esteso. Assolutamente. È un grande e bellissimo viaggio nel tempo. Partiamo da un disegno di ambito peruginesco, quello più antico, quindi riconducibile, diciamo così, alla fine del 400 e primi anni del 1500. Poi abbiamo il disegno di Scuola di Raffaello, che è stato datato tra 1520 e 1530, quindi negli anni immediatamente successivi alla morte del grande maestro. E poi si fa tutto questo percorso all'interno dell'arte italiana, soprattutto bolognese, passando per autori molto importanti come Bartolomeo Passerotti, Ludovico Carracci e Domenico Maria Canuti, Consetti, fino ad arrivare all'Ottocento con Alessandro Guardassoni. Siamo stati beneficiati da un lascito molto importante di disegni di Guardassoni che coprono un quarantennio della sua attività, quindi da uno schizzo giovanile fino a quelli proprio fino agli studi per i grandi dipinti di storia della maturità. E poi si arriva ad autori anche di dimensione più internazionale come Federico Signorini, Giovanni Boldini. E per quanto riguarda l'importanza nella creazione del disegno, certo, è una parte fondamentale, qui viene evidenziata, ci può dire qualcosa di più? Sì, abbiamo infatti un pannello in mostra che riguarda proprio anche quello, parte con una citazione di Leonardo. È stata quella proprio la nostra scelta, cioè di velare un po' al grande pubblico l'importanza del disegno, perché insomma i nostri pannelli in mostra in generale descrivono le sezioni di mostra, descrivono i disegni, ma non si soffermano, diciamo, a dire perché il disegno è così importante, cos'è il disegno. E quindi c'è questo pannello che illustra, insomma, è chiaro che è lo studio primordiale di un'opera, è la parte veramente forse anche più creativa di un artista, in cui al di là dei vincoli esprime veramente quello che in quel momento hai in mente. Uno degli aspetti di rilievo di questa collezione è proprio il fatto di avere in mostra diversi disegni e preparatori per pale d'altare, per dipinti affreschi che si trovano all'interno della città di Bologna. È una collezione che si connette molto anche con la città, questo credo sia un aspetto molto importante, è proprio una collezione donata a un museo pubblico, un museo dello Stato, ma comunque molto connessa con la città. Io la ringrazio tanto e le auguro buona giornata. Grazie, grazie a lei, grazie a lei.